vestito nero leggero e con le tue scarpe in mano. Scusi signorina, posso farle un po' di compagnia? Sono un portatore sano. L'estate passerà, ed io sarò la bocca che l'inverno spera. L'estate passerà, ed io sarò la calda pelle che consola. E poi farò con te quello che farà la primavera. Lì a parlare con la luna del tuo mare, dentro a quel vestito nero ma fiero e con il tuo cuore in mano. Poi ti ricordi, scusi signorina, posso farle un po' di compagnia? Sono un portatore sano di follia. L'estate passerà ed io sarò la bocca che l'inverno spera. L'estate passerà ed io sarò la calda pelle che consola. E poi farò con te quello che farà. Sento dentro, chissà se ricordi il giorno in cui ti ho detto: scusi signorina, posso? E poi farò con te quello che farà. Quarta ed ultima parte di Rock Legends, continuiamo ad ascoltare i brani del disco dei Quinta Stanza dal titolo Meravigliosamente Male. Come si chiamava questa canzone? Questa era Scusi Signorina. Quali saranno ora le prossime mosse della band per il futuro? Beh, stiamo promuovendo l'album, quindi l'idea è quella di fare più live possibili. Poi stiamo realizzando dei nuovi brani in studio, quindi insomma andiamo sempre avanti chiaramente. Siamo quinto brano, cosa scegli di far ascoltare? E a questo punto direi Meravigliosamente Male, il titolo, la canzone che dà il titolo all'album. Da tempo non ho più una risposta ai miei perché. Se guardo un'isola che c'è, che provo per te. E non va molto meglio con gli amici che sono qui per me. Mi clamorosamente male. Non dormo più e vivo appeso a un filo. Il tempo come sempre vola e noi siamo quasi in chiusura di puntata. A voi ricordo i contatti per le segnalazioni. Scrivete l'indirizzo email jeanluc76@yahoo.it. Ricordo www.radiorcs.it per info su Radio RCS, Rock Legends e streaming per ascoltare la nostra radio attraverso il Media Player. Un grazie ad Andrea di Quinta Stanza per la partecipazione, buona fortuna per il vostro album e a questo punto la parola per i contatti web ed email per info sul vostro disco ed un calendario di live già definiti. Trovate tutto su www.quintastanza.com.it, lì trovate anche tutti i contatti Facebook, YouTube. A tal proposito, abbiamo appena fatto un nuovo video del brano Diabolica Angelica con la partecipazione della bellissima e bravissima attrice Ilaria Calza con la regia di Michele Comerlati, quindi non perdetevelo, andatelo a vedere. Per quel che riguarda live? E al momento non abbiamo live, abbiamo appena fatto una serata sabato scorso, stiamo programmando. E allora, brano per chiudere in bellezza questa serata? Direi proprio Diabolica Angelica. Jean-Luc e Andrea di Quinta Stanza vi salutano, noi ci risentiamo la prossima settimana quando avremo ospiti Cinema Volta, formazione funk rock bresciana che ci presenterà il disco 13. Ciao! Ciao! Io ti dicevo svegliami, accontenterò la tua voglia di panna e fragole. E fuori intanto fumano mille fabbriche e chilometri d'auto che si inseguono metodiche. Vanity.